avuto 2 anni fa dei picchi che hanno raggiunto anche livelli più alti di quelli attuali, poi c'è stata una fortissima discesa, adesso si sono rialzati. Io credo che la fotografia sia quella di un mercato instabile, di un mercato in cui gli operatori, per un motivo o per l'altro, fanno fatica a programmare o a ricercare contratti che possano poi soddisfare quelle che sono le esigenze dei trasformatori. Qui ci vorrebbe una maggiore programmazione, bisognerebbe cercare di speculare meno sul mercato, cercando magari l'offerta e invece vedere come si può costruire un futuro. La stessa Unione Europea sta cercando di trovare dei meccanismi per aggredire le cosiddette crisi di mercato ed evitare che ci siano delle fluttuazioni così forti, perché è chiaro che l'economia è una cosa importante, ma la pancia, se non è piena, dà qualche fastidio. Quindi rimane comunque una priorità il fatto di poter avere anche quando è troppo piena, sicuramente, o quando qualcuno ce l'ha piena, qualcuno ce la vota. E lì torniamo su quelle che sono le tensioni sociali e diciamo così politiche che si sono composte nell'ultimo periodo, soprattutto nella fascia africana. Un'ultima domanda, dottor Bazzana, le vostre previsioni concrete, visto che poi voi fornite alla Coldiretti, quindi i vostri associati, tutto anche un insieme di dati previsionali, prezzo del mais, del frumento e quant'altro, sono comunque diciamo ancora di prezzi in tensione, perché poi su questo ci scrivono molti agricoltori evidentemente. Previsione dovrebbero rimanere in tensione se queste sono le situazioni, cioè quelle che abbiamo descritto in precedenza. È chiaro che però per quello che riguarda il nostro paese noi abbiamo 2 esigenze. Una esigenza è quella di riuscire, diciamo così, ad assolvere alle necessità di auto regolamentazione delle nostre produzioni per quello che riguarda il mercato interno. Noi però siamo anche un grande paese esportatore, è chiaro che poi abbiamo la necessità su alcuni prodotti di fare delle importazioni, quindi è questo mix di autosufficienza e di esportazioni necessarie che poi porta a comporre quello che è lo scenario attuale.